Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo del trabalun che oggi torna a parlare di Gianni Rodari, perché questa grande figura di intellettuale italiano, nella sua attività di educatore, pedagogista, insegnante, ha seminato proprio in Italia delle scuole, delle tradizioni che poi nelle città hanno avuto delle conseguenze più che virtuose. Solitamente quando si pensa a Rodari si dice Omegna, città d'origine, o magari Reggio Emilia, laddove si buttarono le basi anche per la mitica grammatica della fantasia, ma oggi invece ci spostiamo verso la Romagna, a Forlì, dove appunto il passaggio di Rodari ebbe un'incidenza fortissima. Ne parliamo con Mario Proli, che è giornalista, su questo modello educativo nato a Forlì proprio dalla presenza di Rodari. Dopo lo stacchetto musicale, Morena Moretti intervista proprio lo stesso Mario Proli. Asheville Junction, swan and no eternal, all caved in bay. All caved in last December, I remember wind blow cold, bay, wind blow cold. Mario Proli, nel 1974 Gianni Rodari venne a Forlì per una serie di incontri e di iniziative con la cittadinanza, in particolare insegnanti e genitori. Questi incontri si svolsero in 4 giornate e avvennero ad un anno dalla pubblicazione del suo saggio La grammatica della fantasia. Tu ne scrivi come di una esperienza straordinaria per la città. Ecco, che cosa accadeva in quegli anni a Forlì? Allora, fu un'esperienza straordinaria sotto vari punti di vista. In primo luogo perché a Forlì, in quegli anni lì, cui stavano prendendo forma i servizi con una guida comunale molto marcata, i servizi educativi, i servizi nel campo sociosanitario. Per Forlì questa presenza di Rodari volle dire dare forza e consacrare a un pubblico anche più alto, un pubblico ovviamente di addetti ai lavori, il fatto che si stava costruendo un modello delle scuole dell'infanzia che da Forlì poi ha fatto scuola a livello nazionale e internazionale. Un modello in parte differente, perché è costruito in modo anche artigianale, diciamo in parte differente da quello di Reggio Emilia e di Bologna, che erano altrettanto famosi a livello appunto mondiale, e che aveva avuto come protagonisti 2 persone. Uno era un maestro, si chiamava Duilio Santarini, aveva fatto anche il partigiano, era un artista, si occupava di tante forme espressive, e diede corpo in modo strutturale, come dipendente del comune, insieme a un assessore che si chiamava Maria Belli, a quel mondo che potremmo definire come quello degli atelier. Inventò un gioco nel quale i bambini fra legno e strutture potevano dare forma ai propri contenuti di fantasia e anche di materialità, e tutto questo venne collocato da Forlì in una dimensione della nuova pedagogia che aveva Gianni Rodari come punto di riferimento. Per cui Gianni Rodari venne a Forlì, portò il modello di Rodari a Forlì che venne acquisito, e Forlì insieme a Gianni Rodari fece vedere quello che stava costruendo, ripeto, in un modo molto artigianale. Questo grande gioco, che era stato chiamato Alessandro B, era stato costruito da Duilio Santarini proprio in un modo artigianale, cominciò ad essere collocato nelle scuole dell'infanzia che stavano nascendo a Forlì. Quindi questo fu intanto un primo esperimento. Mi pare di capire che l'esperimento vero di questi nidi era quello di cominciare da una realtà di nido, sperimentare e poi su questo modello replicare, è giusto? Esattamente Marco. Così, esattamente così. C'è da fare una contestualizzazione. Dal 1966 al 1970 Forlì ebbe una serie di situazioni di crisi politiche che determinarono il fatto, con la legge elettorale dell'epoca, che non ci fosse una maggioranza, per cui Forlì veniva da 4 anni di commissariamenti per prefettizi. Nel 1970 la guida della città venne presa da una giunta di sinistra, guida del Partito Comunista, si chiamava Angelo Satanassi, il sindaco, in coalizione con i socialisti, mentre invece fino al 66, dai primi anni 50, Forlì aveva visto delle giunte a guida del Partito Repubblicano con in maggioranza la Democrazia Cristiana e a partire dai primi anni 60 il Partito Socialista. Per cui il dopoguerra ha una caratterizzazione di quel tipo lì. 4 anni di commissariamento, quando la sinistra prende la guida della città, comincia a voler dare un'impronta molto forte anche di carattere sociale, oltre che politico, al proprio avvento. E questa impronta come la dà? La dà nei servizi. E i servizi, in modo particolare, i servizi alla famiglia e i servizi per l'infanzia. Per cui ci sono i nidi, le scuole dell'infanzia che cominciano a essere costruite in ogni quartiere secondo determinati requisiti, e il modello educativo che viene approntato in queste strutture è una nuova pedagogia, è Rodari più la sperimentazione locale legata agli atelier. La scuola è l'erba che cresce fra due campanelle, la scuola è scappare di corsa via dalle pitelle. La scuola è un biglietto con dentro un sorriso e un rimpianto, passato così di nascosto al compagno di banco. La scuola è l'odore di fresco il mattino a settembre, è bianco Natale col flauto il 21 dicembre. La scuola è un astuccio, un diario e l'estate finita. La scuola prima di tutta la vita. La scuola è un bambino biondo con un grembiule blu, in piedi accanto alla sua mamma che per 5 ore non vedrà più. La scuola è molto più di questa canzone, la scuola chissà poi perché, ma forse la scuola è l'inizio di tutto, la scuola è il Big Bang. I genitori ebbero anche un ruolo importante in questa esperienza, furono coinvolti anche proprio nella costruzione di queste scuole, diciamo, nella realizzazione dei materiali didattici. Rodari naturalmente credo che da Forlì imparò anche molto, questo almeno lo dice poi nei suoi scritti. Ma Forlì rimane un modello che, a differenza di quello di Reggio Emilia, è sconosciuto o conosciuto poco fuori dagli addetti ai lavori. Tu hai una spiegazione per questo, Mario Proli? Non so la percentuale di conoscenza che possa aver avuto il modello forlivese e quanto di questa conoscenza sia sopravvissuta. Una cosa che è rimasta presente a Forlì è l'attenzione che da fuori è sempre gravitata attorno a questo modello. A Forlì non c'è stata percezione che sia stato un modello minore di altri, per intenderci. Forse esclusivo, forse caratteristico. E aggiungo anche una cosa, prendendo spunto da quello che diceva prima. Fondamentale, proprio nella logica dei nuovi servizi, fu il coinvolgimento delle famiglie. Fu proprio strutturale il coinvolgimento delle famiglie anche nell'impianto pedagogico, diciamo così. E da questa matrice, che fu famiglie, istituzioni, persone che si occupavano di educazione, poi sono nate delle figure di primissimo piano, anche in campo nazionale, come quella di Giancarlo Cerini, che è stato grandissimo nel mondo della scuola. Ecco, Giancarlo Cerini ovviamente era giovanissimo, ma l'aria che ha respirato è stata questa qui. Per cui quello che ho cercato di sottolineare nel saggio pubblicato anche nel libro che abbiamo dedicato a Rodari è questo. Rodari non fu un ospite a Forlì, che Forlì accolse con affetto, fu un elemento portante di un progetto. È un valore aggiunto. Poi il destino, come diceva lei, di quale modello possa aver avuto più fama o possa aver fatto più scuola a livello nazionale, Reggio Emilia sicuramente è il modello, no? Tutti ricordano Reggio Emilia. però Forlì non si è sentita seconda. Hai accennato alla pubblicazione Al servizio del bambino, dall'incontro con Gianni Rodari ad oggi 1974-2024, che è a cura di Giorgio Diamanti e che è pubblicato da 06 App, di fatto dal comune di Forlì. In questo testo che avete pubblicato sono trascritte le registrazioni di quelle quattro giornate seminariali. E quindi è un testo molto utile, particolare, perché sono proprio inediti. È esattamente così. A un certo punto, da una ricerca locale, ha spuntato fuori una serie di articoli di quelle giornate che hanno fatto emergere l'importanza sotto questo sguardo completo di cui ha cercato di dare rappresentazione. E allora sono cercati i rapporti con l'archivio Rodari e col professor Diamanti, che è un punto di riferimento dell'archivio della famiglia Rodari. In tutta questa ricerca si è riusciti a trovare i documenti che erano stati conservati, in cui ci sono le registrazioni, in cui c'è tutto praticamente materiale di quei giorni, compreso un'evocazione a favola che Gianni Rodari avrebbe fatto su Forlì, prendendo come riferimento il drago, che è la figura con la quale il protovescovo di Forlì, San Mercuriale, si misura e che non uccide ma addomestica, anzi mi sono sbagliato, educa e va in dialogo con lui. L'ultima cosa che ti chiedo è cosa resta oggi a Forlì di quella esperienza nei vostri servizi all'infanzia? I servizi dell'infanzia nel comune di Forlì sono servizi ancora di grande qualità e apprezzati dalle famiglie, che li ritengono un patrimonio. C'è una consapevolezza a Forlì di questo percorso, per cui questo è l'elemento materiale quotidiano sicuramente il più importante. Cioè, siamo figli di questa storia qua. Ancora i servizi oggi sono figli di questa storia qua, nonostante i cambiamenti che in certi casi hanno anche migliorato questo percorso. Poi aver avuto una personalità come Giancarlo Cerini per tanti anni è stato un'ulteriore crescita di quel progetto. Poi rimangono alcune cose. Uno è quella, la memoria, il convegno, il libro, non sono cose scontate. E un altro è che la prima scuola, il primo edificio scolastico che venne fatto dopo la morte di Gianni Rodari, fu intitolato Gianni Rodari, per cui c'era rimasto nella città un sentimento di riconoscenza, di amicizia, quasi di essere sodali con una figura come quella di Gianni Rodari. Ripeto, non è stato uno spot questa settimana, diciamo. Questa settimana, direbbe i contadini, ha permesso a tutti di lavorare di vanga. Voi non la conoscete, agli occhi belli, che è una via Torricelli, da Forlì. Voi non la conoscete, a Tre Castelli, che è una via Torricelli, da Forlì. Un castello per mangiare, un castello per dormire, un castello per amare vero figlio tuo. Voi non la conoscete, agli occhi. Seconda parte, secondo programma, Eulalia riposo non ha. Dice a De Rossi, parliamone a mamma. Ma l'altro risponde, voilà. Poi la cosa si ingarbuglia e sapete perché? Con il treno che va in Puglia è partito De Rossi, io suo. Tre castelli, che è una via Sempre parlando di educazione, invece veniamo alla decisiva attività dell'Unione Donne Italiane nel dopoguerra. È incredibile quante attività socioassistenziali per le famiglie, per le bambine in particolare, ma non solo, più povere, questa associazione abbia messo in piedi. Ce le illustra Ilaria Scalmani, che è dell'Udi Romana La Goccia, intercettata in questo convegno promosso dal CRAP proprio all'inizio di febbraio presso la Fondazione 2000. Dopo lo stacchetto musicale, ecco qualche passaggio dell'intervento della Scalmani. Articolo che però è sempre del 46, un articolo che è simile a quello che lei dice nel primo congresso, che sostanzialmente lui inizia a dare una mano fattiva, ad esempio a Natale da 18.000 pacchi ai bambini di Firenze che erano particolarmente bisognosi, e racconta che addirittura delle donne avevano cucito i grembiolini presi dalle vecchie camicie nere e li avevano riciclati per fare dei grembiolini e dei vestitini per i bambini che parliamo di un'infanzia che era senza vestiti anche, e in tutto questo aveva coinvolto contemporaneamente donne anche ad attivarsi non solo per i propri figli ma anche per i figli degli altri, cioè a farle sentire parte di una comunità, parte di un processo. Sono delle colonie estive, perché quelli sono gli anni in cui inizia una grande attività nelle colonie estive, perché in realtà c'era un problema. I problemi della situazione infantile erano la subalimentazione, la diminuzione del peso e statura tra i bambini tra i 6 e i 12 anni. Questi non sono dati che vi dico io, sono dati che l'Udi raccoglie e che denuncia in maniera pubblica. L'aumento della tubercolosi infantile, lo scorbuto e l'indebolimento della vista dovuto alla vitaminosi. Quindi capite bene cosa significava avere un'infanzia che era affetta da tutti questi problemi e malattie emotivi, per cui poi vengono fatti anche quelli che ora ormai sono, grazie al film e al libro, lo conoscono un po' di più, che sono i treni della felicità. Che cosa fanno i treni della felicità? Vanno a prendere proprio quei bambini bisognosi in aree terribilmente devastate, quindi Napoli e quindi Montecassino, dopo appunto le marocchinate e tutto quello che era conseguito, li portano nelle famiglie del nord. Ma sono anche treni che poi vedremo fino ai fini degli anni 50 vanno a aiutare altre situazioni difficili, come ad esempio il Polesine, gli alluvionati del Polesine o anche della Calabria, li portano in famiglie che non sono ricche, ma si possono permettere magari di dare da mangiare ai bambini, di farli vestirli, di mandarli a scuola, di fargli fare la comunione anche in alcuni casi, perché poi lì c'è tutto il problema della CIE e dell'Azione Cattolica, come vedremo più avanti. Quindi lui inizia a fare una vera e propria azione a tutto tondo su quello che riguarda il settore dell'infanzia. Nel 47 addirittura la Montagnana scrive, c'è uno scambio nell'archivio centrale dell'Udi, ho visto uno scambio di lettere, perché praticamente l'Udi manda un memoriale alle istituzioni, quindi ci sono anche deputati che rispondono, e praticamente un po' tira le orecchie dicendo che va migliorata la situazione alimentare, in particolare bisogna aumentare l'aumento delle razioni per l'infanzia, perché c'è un razionamento retrotrofio, e soprattutto per quello che riguarda anche lo zucchero e i grassi, perché era quello di cui avevano bisogno in quel momento. E quindi sono informazioni che ci possono sembrare banali, ma in realtà fare un'azione diretta significa denunciare quello che era la situazione in loco in quegli anni. Già nel 49 inizia la collaborazione tra l'API e l'Udi, e ci sono proprio sia nei documenti dell'API che in quelli dell'Udi, proprio il compito è quello che l'Udi deve orientare e promuovere l'API, legando addirittura il proprio tesseramento a quello dell'API, proprio per far aumentare tra l'altro i numeri del pioniere del giornale, cioè prima del giornalino, ci sono proprio gli obiettivi che l'API si propone di anno in anno per arrivare al tesseramento. In uno scambio del 50 gli ha proprio detto che i locali per l'API vengono messi a disposizione dall'Udi, cioè l'Udi inizia a dare i locali, così come mette a disposizione i propri capo reparto, e per l'8 marzo l'obiettivo che era a fianco di ogni circolo Udi ci doveva essere un reparto pionieri, perché in quel momento l'Udi era ben radicata sul territorio, le sedi erano chiaramente appoggiate a quelle del partito, quindi erano ramificate in molti territori, e questo significava dare un appoggio sostanziale al tesseramento e all'attività dell'API. Ancora nel 50, in una lettera, in un discorso, Ines Pisoni denuncia la mancanza di 70.000 aule, perché un altro problema, oltre a quello alimentare, era quello scolastico. Oggi parliamo di dispersione scolastica, lì non c'erano proprio le strutture, quindi non c'erano i libri, non c'erano le scarpe per i bambini, soprattutto i bambini tra i 10 e i 12 anni non andavano a scuola perché lavoravano, e questo era un problema che andava risolto. I bambini dovevano andare a scuola, bisognava educarli, quindi l'azione dell'UDI in quegli anni è stata fatta una raccolta firma di libri gratis per i bambini bisognosi, cioè fa una raccolta firma e presenta al governo l'UDI affinché i bambini più bisognosi avessero dei libri gratuito. Veniva richiesta la ricostruzione delle scuole, perché era un momento che bisognava, tra le varie cose, tra le strade, fare anche le scuole, perché quelle mancavano. L'assistenza sanitaria era fondamentale per i medici, per avere appunto dei medici che assistevano questi bambini, che poi vedremo. Riprendevo in mano il libro di Marisa Rodano, Memorie di una che non c'era. Lei raccontava appunto nella situazione a Roma in merito alle colonie. Dice: noi avevamo i bambini che venivano soprattutto dalle borgate, tra l'altro avevamo più richieste di quelle che potevamo soddisfare, perché per le famiglie era anche un momento per cui i bambini non solo non stavano per strada, ma avevano appunto l'assistenza, gli davano da mangiare, li vestivano, li spidocchiavano. Nel 49 a Roma viene fatta proprio anche una manifestazione per chiedere fondi, perché man mano che andavano avanti gli anni, arriviamo fino ai primi anni 50, le sommissioni statali andavano solo alle strutture cattoliche e all'UDI venivano tolte sempre di più. Quindi il problema economico era un problema pesante, e infatti purtroppo dopo gli anni 50 vedremo che le colonie sono costrette a chiudere. E nel 49 addirittura, durante una manifestazione, proprio arriva addirittura la polizia a bloccare questa manifestazione per richieste di fondi. Però poi quello che diceva la Rodano, avevamo un altro problema: dovevamo trovare gli edifici idonei dove poter far stare i bambini, trovare i lettini per farli accomodare tutti quanti, avere le autorizzazioni sanitarie, attrezzare le cucine e avere pure, insomma, le stoviglie, le lettovaglie, tutto quello che serviva. Ogni anno si ricominciava da capo ed era veramente un gran lavoro che era appunto sulle spalle soprattutto dell'associazione e delle donne. A proposito delle insegnanti, cioè sì, è vero, c'erano gli insegnanti, però magari spesso erano insegnanti che non è che erano proprio adatte delle colonie, magari arrivavano col tacchetto, la gonnellina stretta, e lì c'erano i bambini che erano abituati a scorrazzare tutto il tempo per le campagne, ad arrampicarsi, quindi, come dire, bisognava un attimo stargli appresso e fargli un po' di attività. Cioè noi provavamo a dargli un minimo di vade mecum base a questi insegnanti, però insomma la questione, c'era tanto da fare, cioè c'era tanta volontà, ma il lavoro che si faceva anche per fare queste colonie era tanto, perché un po' si improvvisava, un po' si cercava ogni anno di migliorare la situazione, e questi bambini appunto spesso erano denutriti, sporchi, senza scarpe, con i parassiti, quindi immaginatevi d'estate pure che insomma bisognava ripulirli, rimetterli in sesso e intrattenerli, appunto, che erano magari abituati a fare scorribande in giro per le borgate. E quindi il discorso delle colonie è un discorso che è stato molto importante, che tra l'altro ci sono delle foto veramente molto belle di questi bambini, tutti sistemati, che giocano, perché era un momento importante soprattutto per le famiglie, perché poi il problema vero è che c'erano anche le colonie di carattere, quelle cattoliche, quelle che ricevevano i soldi, ma il problema è che poi loro mettevano le rette alte di 18.000 lire, come appunto denuncia poi Parlamento Luciana Viviani nel 50, dicendo: voi date i soldi, però loro alla loro volta chiedono i soldi. Alla fine chi sta dentro quelle colonie sono i figli di chi sta bene, e non sono i figli di chi invece ha bisogno. Quindi quel getto economico che arrivava da parte dello Stato andava a ricadere sulle persone che non hanno meno bisogno, e sui bambini bisognosi questa cosa non avveniva. Ma l'attenzione in quegli anni, per dirvi quanto era tutto tondo da parte dell'associazione, non ricade solo sulle attività appunto in Italia. A un certo punto c'è la guerra in Corea, e nel 51 c'è la campagna Una scatola di latte per i bambini coreani. Quindi lui fa questa grande campagna e raccoglie determinati una certa quantità di soldi per comprare delle scatole di latte e mandare in Corea. Le vette sul latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Prendete più latte,